fossi io, viene lento divagar una musica brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Ieri sera a casa mia abbiamo aperto, lo facciamo una volta l'anno, il baule delle armi. I miei bambini hanno cominciato a tirare fuori dalla naftalina falci, falcetti, asce, coltelli, mannaie, motoseghe, sì, perché hanno motoseghe giocattolo, ma in realtà sono cruente perché simulano il taglio. Poi mi hanno ricordato che in realtà nel baule c'è un particolare contenitore che devono essere conservate, anche se stanno un anno sotto naftalina, in maniera particolare, perché sono fatte di una plastica molto realistica, ma anche molto, molto fragile, molto deteriorabile. Abbiamo molti occhi e pupille, devo dire, hanno un senso viscido a prenderli in mano, fanno schifo, sembrano veri. Poi abbiamo membra umane, dovrei avere anche un po' di coratello, un fegato, un intestino. L'intestino è bello perché lo appoggi sulla sedia, ti siedi, fa anche la pernacchia, meraviglioso. Beh, insomma, stiamo preparandoci alla notte di Halloween, sì, perché chiunque abbia figli sa che esattamente questa notte si scompongono tutti i rapporti timorosi che si hanno tra vita e morte. Ieri abbiamo parlato di vecchiaia, di morte, come qualcosa a tenere nascosto. Ma perché dobbiamo tenere nascosto il senso della morte e una volta l'anno entrare in questa gloriosa e meravigliosa uscita dal mondo in cui la morte, lo scheletro, il teschio, il fantasma, il mostro diventa il principe della nostra giornata? Sì, perché è la notte di Halloween. Adesso Halloween è diventata una festa importante come tutte le altre feste comandate. Io ricordo che una ventina d'anni fa facevo un tirocinio in una televisione di preti dalle parti di San Pietro, c'era l'ambasciata americana presso la Santa Sede, e vedevo la notte di Halloween i bambini dell'ambasciatore e dei funzionari diplomatici con le zucche, vestiti da scheletri. Guarda, loro fanno Halloween come nei giornalini di Topolino, io vedevo da piccolo. Beh, Halloween ormai è una festa che anche alle nostre latitudini è fortemente sentita, e quindi vi farò oggi una trasmissione che potete riascoltare questa sera alle 22 in replica assieme ai vostri figli, e avranno lo stomaco ben più potente del vostro, per questa è la trasmissione dedicata ai mostri e al macabro. Sei pronto? Guardi! Non c'è niente da temere, vedi? Niente sangue, né decomposizione. Solo qualche cucitura. Guarda, ecco il tocco finale. Il cervello che hai rubato, Fritz. Sì. Non è fantastico? È il cervello di un morto che aspetta di rivivere in un corpo che ho creato con le mie mani. Con queste mie mani. Facciamo un'ultima prova adesso. Manovra gli interruttori. Bene. Tra pochi minuti la tempesta sarà al culmine. E noi saremo pronti. Aumenta la potenza. Ma dove vai? Ancora di più! Imbecille, aiutami! Io, che ho 54 anni, pongo il mostro, il fantoccio fatto di pezzi di cadavere del dottor Frankenstein, come il prototipo di tutti i mostri della mia fanciullezza. Mi ha talmente ispirato che poi in età adulta, quando ho dovuto scegliere una sigla per la mia espressione radiofonica, scelsi il golem, che in realtà è l'antesignano di Frankenstein, è il fantoccio creato dall'uomo nella sua inarrivabile presunzione di poter fare quello che ha fatto Dio. Nella leggenda rabbinica il rabbino Lev, che costruisce il golem, quindi il pupazzo di argilla, riproducendo l'operazione del creatore, quando costruì Adamo prendendo proprio del fango e facendo l'uomo, insufflandolo del soffio divino, è diventato uomo. Beh, nella corrente rabbinica della Kabbalah esistono formule segrete per poter rianimare un fantoccio di fango. Questo è avvenuto, pare, nella storia, nella leggenda, nel 1600 circa. Rabbi Lev, rabbino di Praga, costruì il golem, questo fantoccio terribile di argilla che era proprio un Frankenstein. Ma come per il golem, come appunto nel racconto di Frankenstein, il mostro si ribella al suo creatore, la creatura imperfetta si ribella a colui che ha avuto l'ardire di compiere quest'opera scellerata, e lo massacrerà, si rivolterà contro di lui, si distruggerà. Insomma, il mostro fa paura anche a colui che l'ha creato. Si sta muovendo. Guardate, è vivo! È vivo! È vivo! Ha visto, capisce. Non è splendido. Dottore, dottore, dov'è? Dov'è? Presto, prendi una corda. Portiamolo in cantina. Uccidetelo! È un mostro! Naturalmente oggi esistono forme più raffinate, più articolate di concepire i propri mostri. Esistono mostri individuali, mostri personali, i propri incubi. Io ho chiesto ieri sera ai miei amici di Facebook di definirmi i loro peggiori incubi. Questa mattina sentirete alcuni degli incubi che mi hanno raccontato la loro viva voce, ma è stato straordinario. Ho messo questo messaggio all'incirca verso le 22. Dopo mezz'ora avevo già 50 incubi, dei più articolati, dei più fantasiosi, mostri inimmaginabili che venivano fuori dalla singola capacità di ogni mio amico virtuale di dare consistenza al proprio mostro. Poi esistono mostri comuni, mostri uguali per tutti, che sono i mostri che suggeriscono naturalmente le forme di diffusione del fantastico. Io probabilmente ricordo Frankenstein perché i film dell'orrore ai miei tempi erano abbastanza limitati. Oggi esiste una varietà infinita di mostri, ma esiste anche un merchandising della mostrificazione. A Roma esiste un negozio che è il negozio di Dario Argento, dove da 10 anni, penso, ma anche più, forse 15 anni. Mi piace perché prima ci andavo io per curiosità, poi man mano ho portato i miei figli sono cresciuti, ma ogni volta che si va dalle parti di via Cola di Rienzo voglio andare a vedere il negozio dei mostri, dove si vende di tutto, si vendono membra umane, maschere di mostri, sotto c'è un sotterraneo con tutti gli effetti speciali dei film di Dario Argento, che è stato uno dei più formidabili creatori di incubi che ha riscaldato le nostre fantasie spente in anni in cui sembrava che la fantasia fosse tutt'altro che al potere. Beh, nel negozio di Dario Argento è stato Fabrizio Intonti e ha parlato con Luigi Cozzi. Luigi Cozzi che sta lì e vende membra umane, fegati, intestini, accette, pezzi di mostro, a sua volta è un regista degli anni 60, faceva film di fantascienza. Noi un giorno parleremo del cinema di genere di quegli anni lì, che è stato un forte supporto all'immaginario degli anni che sono seguiti. La mia passione per le creature mostruose è nata quando ero bambino. Sono appassionato dei mostri, che allora ce n'erano abbastanza pochi, insomma, però quelli che c'erano per l'epoca, parlo degli anni 50, erano spaventosi. Finché oggi fanno ridere, all'epoca erano severamente vietati i minori di 16 anni. Faccio degli esempi degli anni 50, non so, il mostro della Laguna Nera era vietato ai 16 anni, Tarantola era vietato ai 16 anni. Oggi sono film considerati per bambini, diciamo, infatti il mostro della Laguna Nera è amatissimo dai bambini, lo fanno a Striscia la Notizia. La mostristica, non so come si chiama, la scienza dei mostri degli anni 50-60, oggi è in profonda e meravigliosa riscoperta da parte degli amatori. Però esiste tutta un'altra genealogia di mostri, che sono i mostri che vengono dai grandi filoni dei film, soprattutto americani, ma anche giapponesi. Ne parleremo in termini dettagliato, ma visto che stavamo da Cozzi, esperto in mostri, una persona che ha dedicato la sua vita ai mostri, che vive dentro i mostri, il suo lavoro è stare in un negozio di rappresentazioni mostruose per persone che hanno desiderio e voglia di acquistare mostri o di trasformare le loro fattezze umane in fattezze mostruose. Nascondersi dietro la faccia del mostro è una meravigliosa esperienza. Io stesso, adulto, mi piace, l'ho fatto per vari anni, ho seguito i miei figli mascherati da mostri, anch'io mascherato da mostro, perché è bello vedere il mondo con la faccia del mostro, è bello vedere il terrore delle persone quando riconoscono in te il mostro, chiaramente farlo la notte di Halloween è un terrore posticcio, provocato, è quasi una sorta di rituale magico e festoso, ma io comincio a capire cosa possa passare per la mente dei mostri reali, di quelli veri, quando circolano tra le persone inermi. Diciamo che la festa di Halloween non è arrivata qui, è tornata a casa, perché è una festa che parte da tempi antichissimi, veniva celebrata dai romani, non in modo, ovviamente parlando di streghe e di cose, ma parlando di spiriti, di mondo dei morti, eccetera. Adesso, per effetto della televisione, dei film americani, è ritornata in Italia. Esistono regioni italiane dove da secoli la festa dei morti viene celebrata. Se voi andate a Perugia, se voi andate in Sicilia, la festa dei morti c'è da centinaia di anni ed è Halloween. È vero quello che dice Luigi Cozzi, io sono perugino, ricordo che da bambini io e i miei fratelli aspettavamo il giorno dei morti come il giorno di maggior festa. Adesso non si fa più, ma in un rione popolare della città di Perugia c'erano le bancarelle della festa dei morti. Il giorno della festa dei morti si mangiava un dolce molto particolare, non vi sconcerti il suo nome ambiguo, che erano le fave dei morti. Erano delle cosettine molto dolci, molto zuccherate, con i pinoli, che erano le fave dei morti. E i veri regali, le vere oggetti di concupiscenza che covavamo per tutto l'anno si acquistavano il giorno dei morti. È una festa antichissima. In Messico il Dia de los Muertos è uno dei giorni più importanti, un giorno in cui si vendono scheletrini, si vendono giocattoli a forma di scheletro, dolci a forma di scheletro, in cui i teschi, le calaveras sembrano trionfare. Lì c'è un discorso molto profondo, esiste un ancestro lontano, antico, degli aztechi che ponevano la morte come una grande ossessione, sacrificavano vite umane perché il grande dio, il grande teschio, mantenesse l'ordine cosmico, era continuamente assetato di sangue, e per mantenere la vita continuavano a sacrificare persone, uccidere persone a un grande dio che era rappresentato come la morte. E poi la Spagna barocca, e poi questo senso della riscoperta mistica, della lussuria, quasi della morte, ha fatto sì che in Messico il giorno dei morti fosse un giorno così importante. Ma anche noi, di tutte queste sensazioni così profonde, così antiche, così lontane, abbiamo mantenuto qualcosa che rappresentiamo in un insieme di mostri, suggestioni, scricchiolare di ossa, rumore di partenza di motori di motoseghe, asce, accette, vampiri, voce di Freddy Krueger, unghioni metallici di Freddy Krueger che passano sopra la rampa delle scale. Freddy Krueger è il mostro di Nightmare, l'incubo degli adolescenti. Gli adolescenti, quando vengono colti dai loro primi palpiti sensuali, vedono apparire un mostro che li sventra, li fa pezzi, li uccide, quasi fosse una profonda senso di ritorno puritano al controllo dei propri sensi. Beh, questi e tanti altri mostri li abbiamo racchiusi in un'unica grande, profonda, viscerale, vomitosa sensazione sonora. Lo scorso anno i più fortunati morirono per primi. Quest'anno i più fortunati moriranno alla svelta. Non sono io ad avere paura, è lui. Michael, con chi stai parlando? Con nessuno. C'è qualcosa qui! E ho paura! Vedo cose spaventose, Amy. La moglie ci ha portato le braccia mozzate. Fanno qualsiasi cosa per raggiungere il loro obiettivo. Vedrai gli esseri umani sotto una luce completamente nuova. Ho al telefono Fabio Giovannini. Giovannini, buongiorno. Buongiorno. Giovannini è un saggista, giornalista, scrittore. Ha scritto un libro, secondo me, fondamentale, anche se è datato di qualche anno, per Castelvecchi, Mostri, in cui fa un'analisi come se parlasse di momenti fatali e importanti della nostra letteratura, della nostra storia, dei mostri del Novecento. Io ne ho citato qualcuno, Giovannini, partendo da Frankenstein, che era il prototipo dei mostri della mia generazione, generazione degli anni 50, ma via via si è articolata, si è modificata, e il mostro ha assunto delle forme variopinte, divertenti, e l'umanità, e soprattutto la gioventù e la fanciullezza, sempre più assuefatta alle immagini di mostri. Ecco, è possibile tracciare una galleria dei mostri più importanti negli ultimi 10 anni, ad esempio? Ma intanto c'è un mostro che continua a esserci, ed è il vampiro, che mi sembra sia tra quelli classici quello che ha avuto più fortuna e vita più lunga, del resto è immortale proprio per definizione, quindi sì, poi ci sono le generazioni dei vampiri che combattono con i lupi mannari. Esatto. Il fenomeno moderno è della contaminazione, i mostri si incontrano in un luogo irreale, mostri che appartengono ad altri filoni. Sì, sicuramente c'è questo, e c'è anche la vitalità di alcune figure della tradizione gotica che evidentemente hanno ancora qualcosa da dire nel 2008, insomma. Anche la mummia, se vogliamo, è molto presente, però forse il mostro che si sta moltiplicando di più negli ultimi decenni è lo zombie. sul quale ormai si contano centinaia di pellicole sempre più spaventose, che però probabilmente parlano molto all'immaginario dei nostri giorni. Ecco. Dal primo film di Romero, che è piuttosto lontano nel tempo, non vorrei dire stupidaggine, ma primi anni 70, il primo zombie proprio. Addirittura 68. Ah, 68, ecco. Poi c'è stato il classico zombie, La notte dei morti viventi, con i mostri che si muovono nel supermercato con la nostalgia di quel luogo che è stato così importante alla loro vita. E dietro questo c'è l'angoscia totale dell'umanità e della contemporaneità di un mondo che ci toglierà le facoltà umane. Ma questo senso della sopravvivenza, devo dire, del mostro che non muore mai, mi sembra notevolmente ribadito anche nei mostri più moderni. Sì, sicuramente. Una delle caratteristiche dei film horror a partire dagli anni Ottanta è la loro serialità, cioè da un film poi seguono dei remake che però sono in continuità col precedente. Abbiamo già citato Nightmare, e Freddy Krueger è stato proprio caratteristico in questo. Da un primo film di grande successo poi il personaggio è ritornato in una sorta di mini filone, ma così è stato per Venerdì 13 e per tanti altri. Però anche Freddy Krueger alla fine, per avere una nuova giovinezza spettacolare, ha dovuto incontrarsi, non mi ricordo bene se con Jason, con un altro mostro con cui si è dovuto confrontare. C'è questa tendenza attuale poi di mettere a confronto mostri di filoni cinematografici diversi, ma anche questa però non è una novità, perché già negli anni 40 a Hollywood avevano cominciato a mettere insieme Frankenstein, Dracula, l'uomo lupo in una serie di film che cercavano di insomma di fare un bottino anche di biglietti grazie a più di un mostro nello stesso spettacolo, insomma. Però evidentemente oggi c'è in più questo gusto della contaminazione, dell'incontro appunto tra filoni, ma anche tra generi diversi. Citando La Mummia, di cui abbiamo parlato un attimo prima, ora abbiamo il filone dei grossi film spettacolari a sfondo però umoristico e commedia, dei film appunto sulla mummia che si sono susseguiti, diciamo, ormai che siamo al terzo episodio. L'aumentare della tecnica per realizzare gli effetti speciali, che oggi veramente al cinema si può vedere di tutto, non ci sono più limiti alla fantasia, le mummie che si rincarnano, si discarnano, si arrovellano, una volta era nella rozzezza dell'effetto cinematografico, però veniva compensato con il pathos, con le inquadrature angosciose. Oggi c'è un po' una calata, oggi, come ha detto giustamente lei, in realtà il film dell'orrore non si va più per rabbrividire, ma si va per sorridere, ci si ride sopra. Talmente... Non sempre, in realtà si va per sorridere, ma anche per farsi ancora spaventare e impressionare. Questa è un po' la forza dei mostri, che cerchiamo di metterli in ridicolo, come del resto anche nel lontano passato si cercava di mettere in ridicolo il diavolo, no? Un modo per allontanarne la paura era quello di ridicolizzarlo, di presentarlo in modo macchiettistico. Così anche con i mostri avviene un po' lo stesso, però sono convinto che l'elemento spaventoso e terrorizzante, che evidentemente parla anche al nostro inconscio più profondo, i mostri ce l'abbiano ancora, e il cinema gioca un po' su tutti i piani, quindi ci fa sorridere magari alternando scene invece sanguinarie e effetti da brivido. Quindi io sono convinto che il mostro fa ancora paura e dà fastidio. Se mi permette, faccio un accenno che mi ha un po' sorpreso proprio ad Halloween. Credo che questo sia il primo anno in cui le TV italiane, Rai e Mediaset, non dedicano la sera di Halloween nemmeno un film horror, nemmeno un mostro. Su Sky, cioè, su Sky mi sembra c'è qualcosa di particolare. Però diciamoci la verità. I canali sono spariti e forse fanno ancora paura i mostri. Sì, ma diciamo c'è una forte resistenza a voler considerare tutto ciò che esuli dalla tradizionale, ortodossa e riconosciuta lettura di ciò che è bene, ciò che è male, ciò che è mostruoso, ciò che in realtà porta alla santità. Ci sono dei vampiri tra noi. I vampiri stanno conquistando il mondo. Resta solo il New Jersey. I pochi uomini rimasti si cannibalizzano. Vendono l'anima per la promessa di una futura immortalità. Anche tuo padre potrebbe tradirti per versare il tuo sangue nel calice degli oscuri signori. Ma i vampiri sono troppi e il sangue non è abbastanza. Il sogno di immortalità è una beffa. I traditori sono divorati e buttati fra i cadaveri di quanti hanno tradito. Niente sembra poter fermare l'invasione. L'umanità finirà, scannata al macello. Una speranza accende il buio. La resistenza. Diciamo che la grande paura collettiva alimentata da tutta la letteratura mostruosa, da tutta la filmografia legata ai mostri, legata a tutto l'immaginario dei mostri, poi viene declinato attraverso altre forme di fruizione del brivido mostrifero. Oggi, ha detto prima Giovannini, il cinema è stato un forte veicolo per alimentare l'immaginario mostruoso, ma non soltanto il cinema. Oggi con il mostro si ha una familiarità molto più contigua, si gioca con il videogioco del mostro. Quindi i videogiochi più frequentati e anche più denigrati, più messi all'indice, sono quelli in cui si può bombardare lo zombie, fare a pezzi lo zombie. Per la stessa ragione i mostri oggi vengono anche declinati in oggetti. Il mostro tutto tondo può essere acquistato, sono meravigliose le riproduzioni di mostri. Sono meravigliose le maschere che oggi si possono mettere. In questa nottata di Halloween possiamo vestirci con la stessa maschera che ha l'attore che impersonifica il mostro. Il silicone ha omologato la possibilità di uscire dalla propria umanità, di diventare mostro, che lo spettatore può essere identico a Freddy Krueger. Basta comprarsi la maschera in silicone, comprarsi il guantone. Oggi è possibile. Noi, per mascherarci da vampiro, da Frankenstein, generazione precedente, molto più analogica, molto meno dotata di proiezioni concrete del nostro immaginario, dovevamo metterci, non so, un rossetto alla mamma dal bordo della bocca, squallidi denti di plastica che si rompevano subito, si vedeva che erano finti e facevano male alle gengive, quindi non si poteva essere vampiri per tutta la nottata, si poteva essere vampiri soltanto per un piccolo periodo, perché era limitata la materia della nostra mostrificazione. Oggi sono dei denti da vampiro meravigliosi, morbidissimo silicone, uno se li mette, se li può tenere anche tutto il giorno, ci può anche andare a letto, è come l'apparecchio odontoiatrico. Beh, avevo detto io che avrei permesso ad alcuni dei miei amici su Facebook di raccontarmi i loro mostri e i loro incubi, e cominciamo adesso con Francesca, che ho al telefono, cominciare a raccontarci, però con l'intento, Francesca, di trasferire il terrore che a te fa questo incubo alle persone che ti ascoltano, sennò non sarà mai una trasmissione ascoltabile nella notte di Halloween. Qual è il tuo mostro? Allora, io da ragazzina ho visto L'Esorcista, il celeberrimo film, e per me è stata veramente una cosa drammatica, nel senso che ho cominciato a sognare di notte di essere un'indemoniata, ma avevo il terrore anche di andare a letto e addormentarmi, rimandavo anche quel momento perché io sentivo, come nel film, la mia voce che cambiava. Ero talmente e con il vomito verde come te la mettevi? Guarda, a me ha sconvolto anche quell'immagine che, rivedendola adesso da adulta, veramente ridicola, tanto è fatta male, no? Anche come la testa che gira a 360 gradi, la testa che gira, lei che scende, le bolle sul corpo, la croce che... No, per me era tremendo. Io ero talmente spaventata che mi ero fatta dare da mia madre e da mia nonna un crocifisso di San Benedetto, che mi avevano assicurato fosse quello che teneva lontano il demonio, ed era il crocifisso che usavano gli esorcisti. Ma ci riusciresti a rifare la voce della piccola indemoniata? No. Sforzandoti? No, non penso. Cioè, ma prova, non è difficile. Mi stai chiedendo veramente. Dai, no. Prova, sforzati. Vediamo se il diavolo che è in te riesce a uscire fuori. Stai andando bene, continua a raccontare con questa voce. Gianluca, dammi il microchip. Ecco, perfettamente. Vedete che è molto facile entrare nel mostro. Oggi ti fa sorridere, no, ma però, da bambina te la facevi sotto. No, perché poi era una cosa che è durata per anni, non per poco tempo. Perché poi comunque L'Esorcista era talmente famoso come film che aveva dei rimandi continui ovunque. Sì, cioè, ma c'era anche L'Esorciccio, bastava che andavi a vedere quello, ti sarebbe passata la paura. Era delle mie corde L'Esorcista. Ecco, vedi, questo è il limite di voi giovani radical chic, legate comunque esatto, a letture esatto. Alte. Se fosse tu, però non bastava solo, andare a vedere Franco e Ciccio L'Esorcista. Certo. Io andavo a letto dicendo un sacco di preghiere ma un sacco di preghiere, tenevo il crocifisso tutto il giorno, perché poi è un crocifisso piccolino, e cercavo di addormentarmi il più presto possibile, e mi ricordo che dicevo: io non voglio sognare quello, e cercavo di sognarmi altre cose, perché poi nel film lei era una bambina e aveva la mia stessa età, capisci? Quindi io dicevo: adesso il demonio arriva, sarà la cultura cattolica della mia famiglia, eccetera, però il mio terrore era quello vero, cioè io di notte non riuscivo neanche, non so come dire, mi svegliavo, avevo questo incubo pazzesco, non mi volevo riaddormentare perché rincominciava. Da poi è arrivato un altro incubo che ti ha cancellato questo, è quello dei funghi atomici. Sì, quello veramente era una roba allucinante, quello però l'ho avuto in un periodo più tardo, cioè quando ero tra il liceo e tutti gli anni anche diciamo degli studi dell'università. Ma era già l'epoca di The Day After, oppure è staccato dal film che parla appunto? No, c'è anche quel pezzo lì, c'è anche prima, perché evidentemente c'era, non so se ti ricordi, c'era anche Sting che cantava, no? No, la canzone "Spero che anche i russi tengano i loro figli", no? C'era un po' questo incubo della guerra atomica. Io mi visionavo questa landa desolata, no? Questa terra desolata, vuota, piena di esplosioni atomiche, e c'ero solo io non capivo se ero viva o morta, e questa era una cosa drammatica. In più queste esplosioni di funghi atomici si ripetevano in continuazione, i funghi diventavano piccolissimi, grandi, e poi si evolvevano e diventavano dei volti umani di persone che io non conoscevo, però, e poi ridiventavano funghi, e così avanti, ed era una cosa non voglio entrare in azzardate interpretazioni, essendo molto scettico verso la scienza del profondo, ma questo variare di dimensione dei funghi intorno a te, devo dire che potrebbe dare adito a interpretazioni non di tipo diverso. Tu sei mai chiesto questo? Che devo dire, per me erano delle esplosioni, capito? Diventavano funghi, un po' come la classica foto del fungo di Hiroshima, no? Sì. Che si vede, ecco, diventavano anche spaziali, perché poi cambiava il contesto, lo scenario, erano nello spazio aperto, insomma. Ecco, ma quando facevi questi sogni? Che mi venivano vicinissimi, capito? E poi andavano indietro, ed era ciclico, il fungo diventava fungo, diventava microscopico, poi riesplodeva immenso, una faccia, e di nuovo piccolo, e di nuovo questa cosa, ed erano tantissimi, e io non riuscivo a fermare questa cosa. E adesso ce l'hai fatta? Beh, è tanti anni che non mi capita più. Beh, questo è una grande gioia, è un grande motivo di ottimismo. Una cosa, non ho più incubi da almeno 10 anni. Ecco, cerca di capire qual è stato il momento che ti ha trasformato al punto tale che ti ha liberato dai tuoi incubi, così ci darai una formula di saggezza. Grazie Francesca, ciao. C'è appena arrivata quella dei Killer Clowns, che è una novità anche in America quest'anno, che è molto, molto divertente, perché è un clown, quindi comico, diciamo, però sono dei clown alieni assassini, e quindi invece di avere la classica bocca dei clown, siccome divorano poi le persone, hanno una bocca enorme con dei grandissimi denti tipo squalo, ed è un film divertente, ed è una maschera molto particolare, curiosa. Io l'ho presa nemmeno tanto per venderla, quanto per farvi vetrina, per fare spettacolo. Abbiamo visto quanta delicatezza occorre nel presentare questi oggetti che ci fanno sorridere, ci sentiamo affrancati dal terrore che ci incombono, la maschera del clown assassino, pensate quanti ragazzi poi faranno sogni inquieti, ma il fatto che qualcuno faccia sogni inquieti non deve toglierci la gioia, il divertimento e quel brivido piacevole di attingere a questa forma dell'immaginario, anche perché poi, come ha detto la nostra ascoltatrice, anche dai funghi multiformi, anche dall'esorcista, arriva un momento che grazie a Dio ci si può liberare. Andiamo alle protesi, abbiamo braccia, piedi mozzati, un cervello, cuore, sono molto sanguinolenti, quindi molto splatter, rappresentati in un contenitore da congelatore con tutte le proteine, carboidrati e grassi contenuti all'interno di queste protesi. E un cervello, anche questo può essere molto nutritivo. Beh, spero che non coincida con il momento in cui assumete cibo quello che state ascoltando in questo momento, quello che potrete riascoltare o che state ascoltando, visto che il gioco con il tempo è divertente quando si annuncia una replica, alle 22, notte di Halloween, in cui sentirete Melog 2.0 dedicato ai mostri. Le maschere si sono moltiplicate in questi anni, ma soprattutto si sono moltiplicate dietro al cinema. Abbiamo Joker, del nuovo film. Abbiamo Beetlejuice, anche questo è un film di uno spiritello dispettoso. Freddy Krueger, Nightmare. Saw, dell'enigmista. Maschere da diavolo, da vampiro, da scheletro. Animali finti, topi, ragni, scarafaggi, corvi, civette. L'acquisto degli animali schifosi per un giorno all'anno, devo dire, è una vertigine familiare che probabilmente molti conosceranno, ma chi non la conosce è particolarmente consigliato da me di conoscerla. È bello per un giorno rompere gli schemi del bello, del brutto, dello schifoso e del piacevole, dell'orripilante e del rassicurante, e seguire i figli in questo gioco di trasformazione. Non c'è nulla che rassicuri un bambino, secondo me, quanto il genitore che si trasforma in mostro e gioca con lui. Io ho fatto decine di compleanni di bambini vestito da zombie, ho fatto la Befana perfida per anni, in feste familiari in cui un'amica mia, che poi era Barbara Alberti, lo posso dire, si vestiva da Befana buona, dava regali ai bambini, li faceva felici, poi arrivavo io vestito da Befana cattiva, rubavo tutti i regali ai bambini e poi davo delle cose schifose, dei panini con gli scarafaggi, vomitavo il vomito verde che si compra in questi negozi specializzati, tiravo fuori armi terrificanti. E la cosa straordinaria è che i bambini dimenticavano i regali veri, ma si divertivano da morire nel provare il brivido di assalire, di colpire e di mettersi in competizione con la Befana perfida. Ma come avevo detto, io questa mattina darò spazio ad alcuni degli incubi di prima mano, quelli originali, quelli poco condizionati dall'immaginario cinematografico che mi hanno suggerito i miei amici su Facebook. E ho Massimiliano. Massimiliano, buongiorno. Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, sei pronto a far rabbrividire le persone che ci ascoltano tirando fuori dal sacco nero dei tuoi incubi quello che più ti ha fatto soffrire o godere? Ma sì, in realtà mi ha fatto soffrire e continua a farmi soffrire tipo a scadenza bimensile più o meno. Ma quindi ne soffri ancora di questo incubo? Ne soffro ancora, sono diciamo tre anni e mezzo che ho questo incubo e in breve, insomma io mi sogno di essere in guerra, tipo in un contesto urbano, tipo di guerriglia, una cosa del genere, e quindi con tutto gli NS connessi, sparatorie, situazioni drammatiche, grida, urli, cose del genere, e mi capita tutte le volte di essere, diciamo, di trovarmi inconsapevolmente all'inizio poi alla testa di un drappello di persone che di solito sono dei civili, a dire la verità. Io non ho neanche particolare amore per le questioni o per i film di guerra, cose del genere, e mi trovo praticamente a dover, mio malgrado, cercare di trovare una soluzione per questi civili, una via di fuga o un qualcosa del genere. Può essere, non so, una casa presa di mira da dei mortai, piuttosto che una metropolitana, qualcosa del genere, proprio perché è venuto a mancare qualche momento prima, credo, il personaggio che avrebbe incaricato, diciamo il militare incaricato, di dover portare in salvo questi civili. Sembra la trama di un film di guerra in cui improvvisamente si organizza la resistenza contro un nemico. Ma il nemico chi sono? Nemici esseri umani o mostri? È l'assalto In realtà sono esseri umani, ma la cosa che mi spaventa di più è proprio questo grosso fragore, queste urla, questi rumori, e di solito appunto non riesco mai ad arrivare in fondo a questa avventura, quando quasi come se fosse un videogioco, non ce la faccio mai a superare il livello 1, perché di solito vengo svegliato appunto da dei rumori tipo di bombe, di mortai, e quindi mi sono anche tante volte interrogato su che cosa fossero queste bombe, questi rumori così terribili. Quindi il mostro per te è soltanto un mostro legato a una sensazione auditiva, senti il fischiare delle pallottole, le bombe, e questo per te è qualcosa che ti angoscia? Sì, molto molto, devo dire Gianluca, sì. Ma non hai provato, non so, a comprarti dei videogiochi di guerra o mascherarti, andare a fare le finte battaglie con le armi soft air come fanno molti? Ma devo dire, io ho degli amici che ci sono andati e in quell'occasione non potevo perché avevo un problema di lavoro, ma ci sarei andato volentieri, devo dire, forse quello avrebbe magari disinnescato qualcosa nella mia mente, forse avrei bisogno di una cosa del genere, credo, sì. Ma non ti atterrisce l'idea che potrebbe trattarsi di una profezia? Ma Non lo so, devo dire, io sono sempre stato abbastanza poco sensibile, diciamo, a tutte le interpretazioni dei sogni dal punto di vista psicoanalitico, che magari più, diciamo, metafisico, legato alla magia. Non lo so, cerco sempre di essere terra a terra, però sì, forse questa cosa potrebbe essere una chiave di lettura. Perché il vero film dell'orrore, quello che veramente ci fa capire cosa sia l'orrore, che è rappresentato mirabilmente dal tramonto all'alba di Quentin Tarantino, è che il mostro appare razionalmente in un momento normalissimo. È un film in cui si va in un ristorante notturno abitato, una storia normalissima, le persone che vanno di notte a mangiare in un ristorante, e improvvisamente ci si accorge a un certo punto sono tutti mostri, sono zombie, sono esseri terrificanti e diabolici. Il mostro, quando si concilia con la normalità, è terrificante. Quindi, come la guerra, i nostri genitori ci dicono: è un momento, non ci si immagina cosa sia la guerra civile, che la persona del tuo pianerottolo te lo trovi contro e magari ti viene a prendere a casa. Ecco, probabilmente un insieme di racconti di fantascienza e di racconti di nonni e di genitori ha fatto sì che questo sia il tuo incubo. Auguri, spero che tu ne guarisca, o spero che tu finalmente possa provare questa sensazione, così non ci pensi più. Bene, passiamo adesso ad un altro incubo. Se non vi è bastato l'incubo della guerra improvvisa, delle pallottole, delle bombe, che poi nei film di guerra più realistici di Lanyan oggi si vedono intestini uscire fuori, si vedono gambe spappolate, si vedono moribondi urlare, i film più drammatici di guerra sono quelli in cui in realtà si sente realmente il fischiare delle pallottole, sembra di sentire il rumore delle ossa che si spezzano, della carne che si lacera, degli intestini che brulicano fuori e escono come serpenti impazziti. Elisa, buongiorno. Sì, buongiorno. Andiamo al tuo incubo. Al mio incubo. Premetto che l'incubo che ha fatto, che ha descritto l'ascoltatore precedente, è anche uno dei miei ricorrenti. Ah, te l'hai ridimenticato questo della guerra? No, l'avevo messo. Sì, ne faccio veramente vari di incubi, quindi ho una vasta gamma. Apro una parentesi tragicomica. L'altra notte ho dato un morso molto forte al mio ragazzo e mi ricordo ancora proprio la sensazione di avere il suo braccio tra i denti. Ma dormivate assieme e tu gli hai dato un morso nel sonno? Sì, nel sonno, che okay, ovviamente si è svegliato e quasi dispiaciuto. Mi ha detto: ma Elisa, ma perché mi mordi? E gli ho detto: no, ma... pensavo dicesse: perché non mi mordi sempre? No. Gli aveva dato gusto. Gli aveva dato gusto, no, poveretto, credo che gli avergli fatto male, perché ho proprio fatto con forza. E lui mi ha detto... E dove l'hai morso? L'ho morso sul braccio, sulla spalla quasi, ma mi ricordo proprio bene la sensazione dei denti nella carne. E io gli ho risposto... Quindi scusami, tu avevi quasi una tentazione cannibalica, te lo volevi mangiare nel sonno? No, era un morso come di difesa, di attacco, più che per mangiarlo, proprio come se fosse di attacco, ero arrabbiata probabilmente. E lui, chiedendomi il perché lo mordessi, gli ho risposto: ma scusa, perché sei un drido? E al che lui mi ha chiesto: ma cos'è un drido? E gli ho risposto: un drido, ma quelli della tavola rotonda. Ero proprio chissà dove ero con la testa. Ah, tu avevi coniato una tua categoria onirica, esatto, per cui il drido era una sorta di cavaliere, una cosa... Probabilmente, sì, che mi stava attaccando adesso io. Tu pensavi al drudo, che significa in un termine arcaico l'amante, forse. Non lo so, questo del drudo io sinceramente me lo dici adesso tu, però non lo so. Altro sogno ricorrente, questo proprio terrorizzante per me, sono i serpenti. Me li trovo nel letto di notte, me li trovo in auto quando guido. Ma sempre quando c'è il tuo ragazzo accanto? Anche da sola. Questi è una cosa che mi capita proprio da tanti anni. Addirittura mi ricordo una volta che scappavo dai serpenti, mi sono arrampicata su una persona, le stavo in piedi sulle spalle, i serpenti che salivano su questa persona per arrivare a me erano proprio... Dovresti andare, guarda, la prima settimana di maggio, la prima mercoledì o giovedì di maggio, a Cucullo, che è un paesino dell'Abruzzo, c'è una festa che è fatta apposta per chi ha paura dei serpenti. Io ci sono andato avendo qualche repulsione. Portano questo santo in giro coperto di serpenti. Mamma mia, no. E ci sono i serpari che ti prendono, ti avvolgono di serpenti, ti mettono una collana di serpi intorno, che lo schifo ti passa. È come una prova di iniziazione. Quando sei circondata e abbracciata dai serpenti, non temi più il serpente. Bella scelta, però. Ma tu lo prenderesti mai in mano un serpente? No. No, no, è proprio il terrore, è troppo. Sono anche andata a mostre per vedere se mi passava, ma ho paura anche solo vederli al di là del vetro, proprio una cosa più forte di me. Non... Beh, visto che la notte di Halloween, io non posso che farti un augurio di addormentarti felice e contenta, anche senza ragazzo vicino, e di risvegliarti avvolta nelle spire del grande serpente, che magari anche lui è il tuo drido e probabilmente ti renderà felice in questa notte misteriosa in cui può accadere di tutto, e spero di tutto accada anche per chi mi ha ascoltato. Arrivederci.